Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione. Di tutte quelle strade provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno, non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Di tutte quelle strade saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, o gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli irticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. Certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, si sente una canzone da lontano. Potresti fare solo un po' più piano.